possiamo applaudire. Ecco, ringraziamo Silvia Cesco che ci ha dato l'introduzione con la sua chitarra. Benvenuti a tutti quanti, buonasera. Buonasera ai nostri ospiti. Con questa serata vogliamo così inaugurare un periodo, una settimana che è dedicata alla Shoah, alla memoria, e come tutti gli anni anche questa biblioteca si adopera per non dimenticare, ecco, come dice anche Lionello Bertoldi che è qui con noi, perché la memoria duri. E in questo senso questa sera siamo particolarmente contenti di realizzare questa iniziativa con l'ANPI e avendo con noi Carlo Romeo, l'avvocato Arnaldo Lohner, Mariella Fassardi, Silvia Cesco, il dottor Costantini che è procuratore militare, è stato procuratore militare nel processo contro Seifert, e ricordo che l'avvocato Lohner è stato parte civile, ha preso la difesa di parte civile per il comune di Bolzano, e infine anche appunto il professor Dobrilla che ci presenterà una testimonianza, avendo lui conosciuto direttamente anche il nostro poeta. Poesia come resistenza è il titolo di questo incontro. Partiremo appunto dalle poesie di Minghetti e Mariella Fassardi darà la voce a queste poesie di grande intensità. Come si diceva ieri parlando, è riuscito a dare una bellezza e una leggerezza a dei temi di grande sofferenza, e siamo contenti, ecco, di poter offrire, ricordare, anche se sono ricordi dolorosi, comunque nella speranza che questo possa servire per migliorare e per pensare a un futuro anche con un po' più di fiducia. La biblioteca comunque ha una missione, anche quella di poter allargare, di invogliare le persone sempre a leggere, ad informarsi, a costruirsi un percorso e un libero pensiero, per cui anche in questa occasione siamo presenti in questi due giorni, il 24 e 25 di gennaio, presso il foyer del Teatro Cristallo, con una vetrina insieme anche all'associazione ANPI e una bibliografia aggiornata e sempre legata al tema della Shoah. Vi ringrazio, grazie ancora di essere venuti, di aver accolto così il nostro invito, e buona serata a tutti. Bene. Buonasera a tutti, questa è diciamo una serata, un incontro su un personaggio veramente particolare, diciamo che attraverso la sua vita si legge un po' la storia di tutto il Novecento, i periodi più tragici li ha vissuti in pieno. Io ho cercato su quel foglio che avete trovato sulla sedia di fare una sintesi, ma non mi stava dentro tutto, per cui è una, come dire, sono semplicemente dei piccoli spunti. Meneghetti, scienziato, farmacologo proprio di prima fila, uno dei primi negli anni 30 ad interessarsi la chemioterapia, ad esempio, i suoi primi studi, sui suoi elementi di farmacologia credo che abbiano studiato lunghi anni tutti gli studenti di medicina in quegli anni. Il Meneghetti, combattente nella prima guerra come ufficiale medico, lui era diventato medico sulle orme del padre, che era stato psichiatra, direttore della casa di cura a Verona, e combattente nella prima guerra mondiale in prima linea come ufficiale medico, decorato più volte e ferito. Il Meneghetti antifascista, che nel dopoguerra veramente in maniera precoce, già dagli anni 20, dai primi anni 20, si lega ai circoli, ispirati a quel socialismo liberale di Rosselli, giustizia e libertà, eccetera eccetera. E Meneghetti poi anima dell'Università di Padova, un centro della resistenza contro il fascismo, il nazismo. Ricordiamo solo gli avvenimenti legati al 43, Marchesi, Concetto Marchesi, che diventa rettore, sceglie proprio Meneghetti come suo vice. Poi vedono che la pressione è tale che Marchesi deve darsi alla clandestinità, e prima di farlo lancio il famoso appello agli studenti: liberate l'Italia da quest'ignominia. E Meneghetti che, come dire, compie questa scelta di dedicare ogni sua forza alla resistenza, nonostante il più grande dolore della sua vita, che accade proprio alla fine di quell'anno tragico, e cioè la morte della moglie e della figlia in un bombardamento. E il Meneghetti partigiano, che si occupa sia degli aspetti militari sia della propaganda, possiamo dire che è veramente una delle menti del CLN Veneto. E poi arrestato, torturato dalla banda forse peggiore che ci fosse, Carità, quella di Mario Carità, oltretutto che poi ha un legame con l'Autoagile, perché muore, come sappiamo, a Siusi, a Castelrotto, tentando appunto di nascondersi, è torturato, viene poi incarcerato e quindi trasferito a Bolzano. E di Meneghetti tutti coloro che sono passati per Bolzano e hanno potuto conoscerlo hanno testimoniato della sua generosità, della sua autorevolezza, e quindi, come dire, il suo nome esce da ogni ricordo, da ogni memoria del lager di Bolzano. Nel dopoguerra torna a Padova, diventa rettore, nelle sue mani viene consegnata la medaglia d'oro all'Università di Padova, l'unica università che prende una medaglia d'oro alla Resistenza, e continua accanto all'attività scientifica, continua proprio in quest'opera sia politica, partecipa diciamo pienamente ai dibattiti di quell'epoca, ma piano piano viene fuori quest'altro filone, cioè il desiderio di conservare la memoria. Non solo è tra i fondatori dell'Istituto per la Resistenza del Veneto, di cui è presidente fino alla morte, ma negli anni 50 incomincia questa sua vena, incomincia, come dire, a rendersi tangibile questa sua vena poetica, e appaiono questi canti che all'inizio, primi anni 50, sono ancora così sul solco di una tradizione dialettale veronese abbastanza intimista e soggettiva, e poi arrivano a quei vertici che sono i canti sul lager, la partigiana nuda che ascolteremo appunto questa sera. Io, senza farla tanto lunga, vorrei prima dare la parola al dottor Costantini, che è stato procuratore al processo Seifert. Ricordiamo questa particolarità, e cioè che tra gli atti documentali, istruttori, quindi nella necessità di raccogliere tutto quello che poteva essere utile, anche i libri di poesie di Meneghetti, come dire, sono stati importanti. Io devo dire una cosa presentandola, e cioè che Bolzano deve dire molto a tutti coloro che hanno reso possibile questo processo, perché in un certo senso hanno tolto da quell'area di leggenda nera tutti quegli avvenimenti, cioè di Miscia, di Otto, di tutte queste cose. Noi avevamo la memoria, ma era una memoria sfocata, era una memoria non tangibile. Ebbene, aver portato quella persona in carne ed ossa, beh, è stato secondo me un avvicinarci tutti a quegli avvenimenti in maniera proprio completa e diretta. Quindi prego. Da me la parola. Chiedo scusa. Sì. Io vorrei solo aggiungere qualcosa a quello che ha già detto Carlo Romeo del dottor Costantini. No. Diciamo quello che va detto, che il processo contro Seifert non si sarebbe mai potuto fare se non ci fosse stato l'impegno straordinario del dottor Costantini. Voglio ricordare un dato storico. Il processo Seifert era uno cioè il fascicolo Seifert era uno dei 682, quanti erano, fascicoli rimasti per 34 anni chiusi nel cosiddetto armadio della vergogna. Presso la Procura Militare di Roma sono stati rinchiusi ed abbandonati con un timbro di archiviazione provvisoria del 1960, timbro cioè che è sconosciuto al nostro ordinamento, un provvedimento che è sconosciuto al nostro ordinamento giuridico, e sono rimasti 34 anni. Il dottor Costantini ha potuto iniziare l'indagine nei confronti di Seifert soltanto nel 1999 praticamente, e rendiamoci conto cosa vuol dire iniziare un'indagine a 55 anni da quegli avvenimenti che sono stati ricostruiti, hanno portato alla condanna all'ergastolo di Seifert e hanno portato poi, altro fatto del tutto inconsueto, perché Seifert è uno dei pochi di questi processi, o l'unico, meglio, l'unico che è stato estradato dal Canada, è morto nel 2010 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Quindi il processo Seifert ha avuto un ciclo completo: l'indagine del dottor Costantini, la sentenza di condanna della magistratura e poi la pena, l'espiazione della pena nel carcere di Santa. Quindi ho voluto, scusami Carlo, aggiungere qualcosa, perché senza l'impegno straordinario dell'allora procuratore della Repubblica Militare di Verona noi non avremmo raggiunto quel risultato che secondo me è un risultato di giustizia di enorme importanza, la condanna e l'estradizione in carcere dell'Aguzzino dell'Agra di Bolzano, il caporale dell'SS Michael Seifert. Ecco, scusami, adesso. Superando l'imbarazzo di queste troppo generose parole per uno che ha fatto soltanto il suo dovere come imposto dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, superando appunto l'imbarazzo, dirò qualcosa sul Meneghetti, a cui mi legano tanti motivi, se volete, di affetto, insomma, veronese. Io non sono veronese, ma vivo da 50 anni ed è la mia città, è una delle mie città, insomma, una delle mie patrie, Verona, ma è la città in cui così, ho vissuto la maggior parte della mia vita. E giunsi appena terminato il servizio militare per assumere le funzioni di magistrato. Mi legano tanti motivi. Non lo conoscevo, perché è arrivato nel 65 a Verona. Meneghetti era già morto da 61 anni, comunque a Padova, dove viveva, era a Padova. L'ho conosciuto, tra virgolette, naturalmente, nella sua opera altamente meritoria, altissimamente meritoria, di partigiano, di politico, anche se non assurse mai a incarichi parlamentari nazionali, insomma, di cultore, di conservatore, diciamo così, della memoria di quello che egli aveva vissuto sulla sua pelle nell'Agra di Bolzano. L'ho conosciuto in occasione appunto del processo di cui ha parlato l'avvocato Lohner, che faccio ritorsione, avvocato Lohner rappresentò molto molto molto bene, assai degnamente, ed è già un avverbio riduttivo quello che uso, la parte civile del comune di Bolzano, affiancando come accusa privata l'accusa pubblica che era da me rappresentata. E non voglio dire tante cose, soltanto ricordare, ripeto, questa figura eccezionale di uomo che è colpito negli affetti così durissimamente. Era all'università quando ci fu il bombardamento dell'Arcella nel gennaio 44, se non mi ricordo male, vero professore? E funzioni, insomma, universitarie, e tornò, ci fu il bombardamento dell'Arcella, uno dei bombardamenti più terribili di Padova, medaglia d'oro appunto, come diceva il professor Romeo, e ci fu il bombardamento, tornò a casa, trovò la casa distrutta e la amatissima moglie, la dorata figlia, due donne stupende anche. Ho l'edizione maggiore del libro di Saunara, ho visto soltanto pochi giorni fa le foto di queste due giovani donne. È ritornato, trovò la casa distrutta e madre e figlia abbracciate e morte, insomma, distrutte, una vita distrutta, no, perché egli, come dire, sublimò questo dolore, e altri potranno magari meglio di me dirlo, nella sua attività politica, nella sua attività di resistenza, nella sua attività di grande scienziato. nel libretto dedicatogli nel 2001 trovo qualcosa di cose sorprendenti, di una modernità straordinaria, le anticipazioni sulla chemioterapia, va bene, antibiotico terapia, ma non solo sui trapianti eterologi, parlava, o eterologi, non so, sui trapianti, addirittura il prestito dell'ovulo da una donna all'altra, stiamo parlando di cose del 50, cioè di 60 anni or sono, insomma, straordinarie anticipazioni, che sempre vedere era un grande uomo di scienza, fu anche rettore dell'università, come sapete. Ma l'ho conosciuto come testimone, in senso improprio, ma molto proprio, di quegli eventi. Non acquisimmo i libri di Meneghetti, di Egidio Meneghetti, agli atti del processo, ma ne parlammo ampiamente durante la mia requisitoria, durante la ringa dell'avvocato Loner e di altri avvocati. Fu tenuta ben presente questa altissima espressione di poesia civile, no? Le cante in piazza, vero professor Romeo? Le cante in piazza, e di cui le più belle sono dedicate nel veronese, nel suo veronese, nella sua lingua veronese, dedicate le più belle, appunto, tra le più belle, proprio alla sua esperienza del lager. Fu arrestato nel gennaio 45, in febbraio, e liberato, lasciato andare alla apertura del lager, alla apertura che dir si voglia, del lager di Bolzano, di via Resia. E quindi la sua esperienza l'ha trasfusa in queste splendide poesie, di cui che è difficile leggere, dirò soltanto un commento, sentiremo poi. Dico solo questo, che in quelle poesie Lager, Bortolo e Breta, Bortolo Pissuti è uno degli ammazzati da quei due ucraini, che è stato individuato nominativamente Pissuti Bortolo, così burocraticamente, Bortolo Pezzuti, un 17enne di Lovere del lago di Seo, preso perché aveva un fazzoletto rosso, portato al lager, brutalizzato, ammazzato nella maniera più terribile che non si può ricordare se non commuovendosi. E allora Lager, Bortolo e Breta, e dice Giampaolo Martin, questo ricordo di Egidio Meneghetti a 40 anni dalla morte, fatto l'università di Verona, dice in queste poesie, dove il poeta che racconta senza piangere, ma è il lettore che difficilmente riesce a trattenere le lacrime. Questo è verissimo, proprio non si riesce a leggere senza commuoversi, perché data la profonda, immediata, simpatetica partecipazione di quest'uomo a quelle esperienze, a queste persone uccise in questo modo, una perché ebrea, l'altro perché sospetto partigiano dai due assassini. Non voglio parlare del processo, se non dire questo. In questo libretto, in modo meritorio, perché Meneghetti non ha avuto lo spazio che gli tocca, che gli spetta nelle antologie di poesia, non in lingua italiana. Dovrebbe averne di più, spero che l'abbia avuto in seguito. In questo libretto, il professor Martin, nel 2000, quindi si stava svolgendo in quei mesi il processo, dice, osserviamo infine che gli eventi rievocati nella canta, che poi sentiremo appunto per dedicata all'aria, trovano riscontro nella realtà storica e ora anche nelle indagini avviate dal Tribunale Militare di Verona a carico di Michael Seifer e Otto Zain, i due aguzzini di origine ebraica appartenenti alle SS, designati da Meneghetti con i nomi di Missa e Otto. Ma è probabile, e questo è importante, che la verità processuale, se mai verrà stabilita, non aggiungerà nulla al tremendo giudizio storico e poetico quale emerge dai versi di Meneghetti. Ora, non per rivendicare alla ricostruzione giudiziaria una qualche autonomia, una qualche dignità che possa superare addirittura quella poetica, ma ritengo che avere ricostruito i fatti anche sotto il profilo processuale, per la storia, per non dimenticare, abbia la sua importanza, che peraltro sarà avvalsa proprio della testimonianza in diretta del professor Meneghetti. Vi ringrazio. Forse per la gente in fondo forse è meglio parlare da lì, allora. Ma credo che anche questo funzioni. Va bene. Vediamo? Sì, non l'avevo staccato. Va bene. Si sente? Si sente bene? No. Allora aspetta. Cosa sei? Aspetta. Sì. Pronto? Sentite? Alcune brevi considerazioni, perché naturalmente il cuore di questa serata dedicata a questa straordinaria figura di elevatissimo valore morale e intellettuale che è il professor Egidio Meneghetti, il cuore di questa serata è certamente costituito dalle poesie di cui verrà data lettura. Egidio Meneghetti, correggimi se sbaglio, non ha lasciato una memorialistica sull'Agra di Bolzano. Certo, lui ha fatto molti scritti, ha scritto delle bellissime prefazioni a delle opere sulla Resistenza, ma non è un reduce, diciamo, un internato dell'Agra che scrive le sue memorie dell'Agra. Noi sappiamo, abbiamo questo importantissimo libro del notaio Aldo Pantozzi, Sotto gli occhi della morte, da Bolzano a Mauthausen, che è proprio il resoconto della vita dell'Agra, anche Mauthausen. Come? Berto Perotti. Diario? Sì, no, ci sono altri diari, ma voglio dire, il professor Meneghetti non ha scritto niente. Lui è stato portato dal carcere di Verona, dove aveva subito le sevizie e le percosse della banda Carità, addirittura ha avuto un distacco della retina dall'occhio sinistro per le percosse che gli hanno inferto, è stato portato all'Agra di Bolzano il 24 marzo ed è uscito il 30 aprile con la liberazione, però non ha scritto nulla sull'Agra di Bolzano, ha scritto quelle sue poesie che sono naturalmente il vertice certamente di un'anima, oltretutto di un'anima estremamente sensibile, oltre che di un uomo di una grandissima tempra. Per dirvi la tempra dell'uomo basterà ricordare che è stato ufficiale medico nella prima guerra mondiale ed ha avuto 4 medaglie al valore. Basterà ricordare... d'argento. Poi ha avuto la medaglia d'argento della Resistenza, mentre l'Università di Padova, se ben ricordo, ha avuto la medaglia d'oro. Ma non solo, ma nel 1925 lui distribuiva i volantini dei fratelli Rosselli, del Movimento Giustizia e Libertà, di Rosselli e di Salvemini, quindi è stato antifascista fin dall'inizio del fascismo, ha lottato per questi suoi ideali, diciamo, un'intera vita e un'intera esistenza, e ha scritto queste poesie. Io vorrei ricordare una cosa, che il filosofo Adorno ha scritto, dopo Auschwitz, fare poesia è barbaro. E Primo Levi, che ha scritto una meravigliosa raccolta di poesia ad ora incerta, gli ha risposto, dopo Auschwitz si può fare poesia solo su Auschwitz. Questo non vuol dire, poeti ne abbiamo avuti ancora tanti e anche eccelsi ed eccellenti, ma certamente le parole di Adorno e la risposta di Levi ci dicono, è una specie di illuminazione, di folgorazione, ci dicono che cosa è stato Auschwitz e quale può essere la risposta. La risposta poetica sembra difficile poterla fare. Adorno questo voleva dire, è barbaro fare poesia dopo Auschwitz. E Levi gli ha risposto e anche Meneghetti gli ha risposto con le sue poesie. Vorrei aggiungere ancora che il suo antifascismo e la sua tempra di uomo, lui non solo l'ha manifestata nella sua ma l'aveva trasmessa alla famiglia. Voglio ricordare, abbiamo saputo che c'è questa grandissima tragedia che ha sconvolto la sua vita, la morte della moglie e della figlia. La figlia di 16 anni che frequentava il liceo Tito Livio di Padova e la moglie Maria. Ma il giorno prima, risulta da questa bellissima biografia della Saonara, che il giorno prima della loro morte, avvenuta con un bombardamento dell'Arcella a Padova, quando in verità i cittadini di Padova nei vari allarmi non si preoccupavano di molto, perché era corsa così la voce che la città del Santo non sarebbe stata bombardata. La figlia e la moglie il giorno prima avevano distribuito dei volantini della Resistenza e il giorno prima la figlia di 15 anni aveva accompagnato un ebreo che si era nascosto a casa di un amico. Svolgevano un'attività importante, collaboravano con il padre e c'è questa tragedia che sconvolge la sua vita, che il professor Meneghetti arriva a casa, perché un dato tragico è anche questo, vale la pena forse di ricordare come si è svolto questo avvenimento, che gli alunni del liceo Tito Livio sono scesi in un rifugio che era stato predisposto per loro e la figlia ha detto no, noi abbiamo a casa nel giardino un nostro rifugio, c'era una specie di cantina sotterranea con degli archi di pietra, io vado a casa, ed è andata nella cantina con la madre e la loro collaboratrice, sono morte lì e il padre è arrivato e ha trovato la cantina coperta di terriccio, e c'è questa tragica, c'è cioè questo tragico momento, un suo allievo che poi diventerà anche un suo contraddittore politico nel dopoguerra, Zancan, suo allievo Zancan, a un certo punto ha detto: professore, scaviamo, e si sono messi a scavare con le mani. Voi capite l'uomo, la grandezza di quest'uomo. Io vi voglio leggere per esempio che cosa ha detto nel suo testamento, che cosa ha lasciato scritto Meneghetti, che tra l'altro ha lasciato praticamente buona parte delle sue proprietà all'Università di Padova. Disposizioni per i miei funerali dovranno essere esclusivamente civili. Prego che non siano fatti discorsi. Sarò sepolto a Padova nel loculo già pronto e di mia proprietà. Prego l'amministrazione universitaria di mettere di quando in quando qualche fiore davanti ai loculi di mia moglie e di mia figlia. Ringrazio. Voi vedete l'uomo che non vuole discorsi, non vuole celebrazioni. Era stato rettore dell'università subito dopo il grande latinista Concetto Marchesi, era stato, diciamo, il cuore della resistenza padovana, perché è stato diventato subito dopo l'occupazione di Padova il 10 settembre 43 da parte dei tedeschi, è stato il fondatore e ha avuto il comando del centro di liberazione nazionale del Veneto, quindi un uomo che veramente ha dato un contributo importantissimo e fondamentale. Un'ultima lettura. In una prefazione ad un libro sulla resistenza, una lettura che penso troverà il senatore Bertoldi davanti a me molto condividente e consenziente, ha scritto Meneghetti nella prefazione di un libro sulla stampa clandestina della resistenza veneta: bisogna persuadersi che documentare e ricordare la resistenza vuol dire perseverare nell'opera, vuol dire ancora una volta fare la resistenza. Il destino dei partigiani è quello di continuare a lottare, partigiani allora, partigiani oggi, partigiani domani, fino a quando? Direi andiamo avanti, Bertoldi. Fino all'attuazione della Costituzione. Un'ultima considerazione. Quando noi facciamo una serata come questa, noi adempiamo ad un nostro dovere, è un tributo che dobbiamo a questi grandi personaggi che veramente sono stati fondamentali nella nostra lotta contro il nazismo e il fascismo e nel dopoguerra. Quindi noi facciamo qualcosa anche per loro, ma io direi che con una serata come questa noi facciamo soprattutto qualcosa per noi, perché io penso che il ricordo di queste persone, di uomini di questo spessore, oggi nel momento che stiamo vivendo, nel degrado che stiamo vedendo, il ricordo di queste persone credo che possa essere di straordinaria importanza per darci una buona speranza per il futuro. Grazie. C'è un professor amico, il professor Dobrilla, che dovrebbe fare un intervento perché ci racconta qualcosa del professor Meneghetti. Vieni Giorgio. Io ringrazio molto l'onere e la biblioteca per questa testimonianza diretta, perché sono stato studente di Meneghetti e per tutte le cose che avete sentito, nella casa dello studente, che era una casa laica, una casa di poveri, dovevamo superare il 27 di media per essere esentati dalle tasse, eravamo innamorati di questo professore con questo passato di gentiluomo, socialista, scienziato, come ha detto giustamente, anche avveniristico, perché parlava di cose strane, parlava di partenogenesi, parlava di cose che sarebbero diventate di attualità. E noi eravamo innamorati di questo, se non che nell'esame di farmacologia, che mi ha consentito di avere un rapporto personale diretto con questo maestro, eravamo sconvolti dal fatto che lui era rigorosissimo nella materia che insegnava e severissimo negli esami che faceva, però costringeva lo studente a imparare a memoria 70 ricette, che è una roba pazzesca. E noi ci sentivamo umiliati perché ammiravamo il professore, ammiravamo il socialista, ammiravamo il partigiano, però questa qua era una violenza intellettuale intollerabile per un uomo di avanzato, progressista. Tutti non sapevano cosa fare, però poi eravamo innamorati ulteriormente perché lui sulla porta dell'esame, della sessione in cui partecipavamo anche noi, aveva messo un foglio con scritto: i seguenti studenti mi sono stati raccomandati. Ed era il figlio del prefetto, il figlio della gente che conta. E allora noi sempre più innamorati, ma sempre più incazzati per questa violenza intellettuale delle ricette. Allora non si sapeva cosa fare e io una notte ero avvilito perché sono arrivato a ricordarmi prima dell'esame 60, qualche giorno prima, 60 ricette, sulle 10 ultime sbagliavo i fiori, le gocce, l'impasto. e gli ho scritto una lettera anonima. Caro professore, a nome di un gruppo di studenti a casa, l'apprezziamo, lei per noi è un mito, per noi è questo, però non è possibile che un mito così ci costringa a questa violenza che non ha nulla di intelligente. Io gliela scrivo anonima, però prometto che quando faccio l'esame, sia che vengo bocciato, sia che vengo promosso, mi presento e faccio l'esame, mi va bene, sgarro di una goccetta, no? Prendo 29 su 30, non mi ha dato 30 perché ho dimenticato una virgola. Alla mattina faccio l'esame, al pomeriggio telefono alla segretaria. Dico, guardi, sono uno studente che ha scritto, la segretaria si è detto, venga, il professore l'aspetta. Arrivo lì, mi accoglie con la barba bianca, paterno, molto, molto gentile, anche d'aspetto molto dolce, e dico, io ero un po' a disagio, avevo 22 anni, sto professore, e si accomodi, e mi dica, allora, guardi, gli spiego professore, lei non è possibile che rappresenta questo il progresso e poi questa è proprio una roba retrograda. Allora lui mi spiega con difficoltà che cercava di mettere una cosa oggettiva, per cui come il quiz a scelta multipla, tanti giusti, tanti sbagliati, così voleva evitare la soggettività del giudizio. Non mi ha convinto, io non ho convinto lui, ma un po' di incertezza. A questo punto si alza e mi regala questo libro, Canto in piazza, con questa dedica, che io sono un po' emozionato a ricordare, vedete che è giallo, 61, lui moriva quando io mi laureavo, a Giorgio Dobrilla, che sa ascoltare e comprendere, Egidio Meneghetti, Padova, luglio 59. Ma vi rubo ancora due minuti, perché, come ha detto giustamente Arnaldo Lohner, lui ha vietato che ci fosse una commemorazione pubblica all'università, perché lui non apprezzava, non per presunzione, ma non apprezzava molto il corpo accademico che era poco impegnato nella vita civile e non voleva essere commemorato. Succede che negli anni successivi alla sua morte, era già diventato cattedratico da poco, Massimiliano Luisi, che era un uomo di grande cultura, sapeva la lingua, scienziato eccetera, e lui voleva rispettare il testamento biologico, diciamo, di Meneghetti, che non voleva essere commemorato, ma non voleva che passasse sotto silenzio questa figura enorme anche sotto il profilo etico e morale. E allora all'Accademia dei Lincei, di cui Massimiliano Luisi era una, che è ancora una delle poche accademie serie che si occupa anche di problemi di spirito e non del pane, lì ha fatto questo quasi un documento raro, ricordo di Egidio Meneghetti nell'anniversario della sua morte, perché così riusciva a rispettare le volontà del defunto, però anche a ricordarne la figura. Io vi leggo solo due punti di un minuto, tutto varrebbe la pena, ma non voglio rubare tempo. Egidio Meneghetti è per alcuni di noi uno degli spiriti che popolano la nostra società ideale. E dico di proposito per alcuni di noi e non per tutti noi, uno dei motivi per cui non si è fatto commemorare, poiché la memoria stessa di Egidio Meneghetti, il rispetto di lui e di noi medesimi, la persuasione della validità della sua lotta umana ci impongono ancora una volta di scegliere o si è di un mondo o si è di un altro o di un altro ancora. Se Egidio Meneghetti non volle commemorazioni fu proprio per questo, come per ultimo gesto di distacco dalle consuetudini mai sazia delle consuetudini evasive, di ironistica previsione dell'ondata di postuma assimilazione che mai sazia è sempre pronta all'appuntamento per amalgamare dietro il paravento delle commemorazioni l'intero universo di valori nella mediocrità dei compromessi. E ultime tre righe che per me sono, vi assicuro che sono rimaste dentro di me per molto e continuano a esserci. È bene dire e ripetere che in verità molti di noi, quando anche non a parole, certamente nei fatti non credono alla necessità filosofica che spingeva Meneghetti a essere insieme maestro nell'aula e perciò stesso partigiano nella guerra civile. E l'eterna storia, queste sono le righe più belle, e l'eterna storia del comodo distinguere tra scienza e costume, del comodo riscaldarsi nei momenti sentimentali al calore delle fiamme che bruciano i corpi altrui, ma non il tuo, quando non sia la triste storia di chi ride dentro la bottega del proprio personale commercio. Voi capite che in un periodo 23 anni di grande contenuto ideale siamo commossi ancora anche in questo momento quando ci ricordiamo di grazie lui. Giorgio, thank you. Partigiana nuda. Dal santo do battù de longhe fonde, rompe la notte carga di paura, e da palazzo giusti gli risponde un sigo spasimado de creatura. Alfredo, brio dei scuri, i padovani sconta l'agonia dei partigiani. E in maggior carità l'estraco morto de tirar ostie e de fracar pestade, con gli occhi sbiesi sotto il ciuffo storto, e il sevarda le unghie insanguinate. E il butta un'altra simpanina in bocca, e se stravacca in tena gran poltrona, e poi e fissa la porta. A chi gli tocca? La porta si spalanca. Vien una donna. Partigiana, te sì la mia mamma. Partigiana, te sì mia sorella. Partigiana, te mori con me. Me in genoccio, davanti de ti. Ela le magra, tutta quanta oce, coi labbri stretti senza più color. Ela le dritta, anche se i zenocci tremar la sente e sbattucciarghe il cor. O partigiana, se parlerai, subito a casa tu tornerai. Sono operaia, signor capitan, e non so niente dei partigian. O partigiana, se tacerai, per la Germania tu partirai. Sono operaia, signor capitan, e non so niente dei partigiani. O partigiana, te spogliarò e nuda, cruda, te frustarò. E il fa pure quel che gli pare. Son partigiana, non vuoi parlare. Partigiana, te sì la mia mamma. Partigiana, te sì mia sorella. Partigiana, te mori con me. Me in genoccio, davanti di te. Spaisi gli occhi nella faccia bianca, la scruta intorno quella brutta gente, fiapa la bocca sul soffà, la franca la sempitura, i labbri indifferente, longo desnoselà come Pinocchio, 39 la fissa pien de voia, e squilloni sbronzato e struca d'occio nel viso scuro e ransigna da boia. E il carcerier Benelli, bagolon, e scorla le manete, spirità. E dindona Gonelli e il sotestone, cargo de forza e de stupidità. Ma Corradeschi, lustro e delicato, se comoda piani baffettini, e polli sai cavei, morbidi e fini, con la man bianca che accoppa Renato. che si stronse il respiro nella gola. L'è piena di assassini quella stanza. E la l'è sola. Tutta quanta sola. Senza riparo, senza più speranza. E quando man de piombo le si avanza per spogliarla, che vien la pelle d'occa. Con un guiso de schifo la si scansa, me spoglio da per me. Lui non me tocca. Faccia brusa, oci sbatte, cor tontona, trema i dei che desliga e desbotona, sola cotola, via la blusa slisa, che resta le mudande e la camisa. Camisa da soldà, de vecchia lana, mudande taconà, de tela grossa. Ride la franca dalla bocca rossa, è proprio molto chic la partigiana. Carità e rusa, avanti verginella! Il respiro dei maschi se fa grosso. Mentre la cava, quel che la gandosso, e la pinza, al manco fossa bella. Eccola nuda, tutta quanta nuda, che la querse la pancia con le mani. Ride la franca dalla lingua cruda, non si lavano mai le partigiane? Corpo che non conosce la carezza, e de cipria, e de unguento, e de parfumo, pelle che la sa fatto mora e spessa, nel sudor, nella polvere, nel fumo. Sgoba operaia che te perdi il posto. Corri stafetta che se no ti ciapa. Rumega l'ansia che franfugna il sono e intanto la bellezza la te scappa. La testa la ghe gira, una nebbietta ghe cala sopra l'occio spalancato. Lei tornada, una pora buteleta, che l'orco nelle sgrinfe l'ha ciapato. Non la sa dove l'è, forse la sogna. La savaria con voce de creatura. Dammi il vestito, mamma! Go vergogna! Mamma, go freddo! Mamma, go paura! Poi la ride, coi bracci a pingolon. E con una faccia stralossà de matta. Tutti quanti la guarda e nessun fiato. Si è fatto un gran silenzio nel salone. Su da terra la tol le sostra sete. La rispolvera piano, la se le mette, ogni tanto un sangiotto, un gran scorlone. e gay, come un incanto nel salone. Bortolo e Lebreta. Nell'aria di Bolsan è primavera. Il cielo di Bolsan è rosa blu. Ma tu ti senti una tempesta nera lungo la valle che la rampa su. Manda i pomari in fiore alla città sul ventesel di aprile, fresche caresse di profumo e color, ma inutilmente. Bolzan non la che vada, non la sente. De Wehrmacht ingorgata, de SS. E dei fascisti slofi come Strasse. Nell'aria de Bolzan è primavera, il cielo de Bolzan la rosa blu, ma tutti spetta la tempesta nera lungo la valle che la rampa su. E a forza di cruciarsi, di spetar, anche il dolor se cuce un grotto lì. Busia con verità, vita con morta, e ben con male. Insieme in sasmissia, in denabisa sbosa senza sale. E ognuno e si strapega la sua sorte come una strascia gamba informica. Il cielo de Bolzan è rosa blu e gli hai pomari tutti quanti in fior, ma stoffega color de primavera e il grigio sporco del mio sfondra guerra. Vicin della città, sotto colline ingarbugliate, d'erba sgrindena, se qua c'è il campo di concentramento. Tutto attorno una mura di cemento e una corona rusena di spine. Davanti, sul porton de piombo e ferro, una gran parola in pitturade nero. Lager. E drento, su do file, blocchi sgionfi de slorda, de fetori e de piocci. In mezzo alle do file, un largo spiasso. In fondo, de traverso, lungo, basso, schissà per terra, il blocco delle cele. E Drio, la torre delle sentinelle, pronte col mitra, per spassare al campo. Passa sul campo, libere e leggere nuvole rosa, inargentata al sol. Svola sul campo, sigalone nere, rondene in corsa. Libere nel cielo, libere rame de pomare in fior, spunta bianche sul muro a curiosar. E in cima alla collina più darente scaluma l'occio moro d'en canon, cargo de voglia de spassare il campo. Ma nelle celle non si vede niente. Un finestrin a sbaccio volta in su. Filtrar lascia a fatica un fiade ciaro, moio e avvilido come nelle grotte. L'ultima delle celle nel canton non laga sbaccio, luce non che passa, ma de urli spiansisa la sonotte. Sulla porta che è scritto Schwarze Zelle, la cella nera dove che te massa. E il mondo delle celle l'è bastardo. De giorno un stracco piso caro de pansa uda, slanguorido da sogni de slapar. La carne cruda e lardo, lardo, lardo. De notte occhio sbarato nell'ansia di spettar il camion per il campo de Dachau. El vien? Non vien? Tonton? Oddio, l'è qua! Ma è il tuo cor che batte da schioppar. E sempre, notte e giorno, i due ucraini, Misha e Otto, che gli è dell'SS. nel blocco delle cele, come Dio comanda gli ucraini, missa e otto. E il tormento di tutti, Gevadrio. E quando chiama, tutti si fa avanti. E quando parla, ascolta tutti quanti. E quando i tase, tutti quanti aspetta. E le donne spaese le fissa come passare fa con la civetta. Le man de missa vive par so conto. E ga vintani con una rossa schissa, senza pel da 50, la crapa tonda coi cavei rasà. Invanti la se pianta senza col. E le mani, quelle mani. Querte de mace nere e peli rossi, col dei desnoselati, longhi, grossi, che termina batocio, anche quando che dorme o non fa niente. Piana pian le si sera, le si strenze, le si strucca, le spase ma in convulso, se fa viola le onge, sciocca gli ossi e diventa sponcioni i peli rossi. Ma poi tutto de colpo le si smola, le casca pingolon, sfinide, rote, i dei se fiapa come bissi morti. E continua sta solfa giorno e notte, e tutti se le sente intorno al col. Oci de otto che no ga color, il ga vent'anni e salta e canta e ride la bocca coi suoi denti sani, e ride il ciuffo dei cavei castani, e ride tutto il corpo grande, forte, ma gli è de sasso gli occhi e mai non gli ride. Occhi de bissa, occhi de morte, immobili, già sadi che te fissa, sate de signa che te guanta il col, occhi de bissa che te ingiassa il cor. E non l'è colpa vostra, ucraini, piante scassate dalla gran bufera, fioi de contadini, boni e quieti, tacadi alla sotera, quieta e bona, la va brincà la guerra, buteleti, la guerra che straolse e che invelena. E là, lontan, gavì la vostra mamma, una desparata donna, che veciama. Una pora disgrassia che i so buttini, il garo ersado, in boia e in assassini. Pasqua, de mattina, nel blocco delle celle, tase tutti, immobili, de piera, e nella cella nera, tase e il pianto de bortolo pissuti. Le Pasqua, de mattina. E nelle cele ghe silenzio fondo. Un furlan, magro, biondo, con la bocchetta rossa da puntina, l'aveva tentato scappar via dal campo e l'ha finito nella cella nera. Giorni l'amplorato missa e otto. Tre giorni la siga, non vuoi morire. Tre giorni l'ha chiamato la sua mamma. E nella notte, avanti della Pasqua, s'ha sentito la Trento un gran roveio, come de gente che se branca in furia, e un sigo stofegato in rantolar. Ma dopo non si sente che non se mar pesante, e rauco, e ingordo, come quando le bestie del seraglio gli ghida carne cruda da mangiare. Le Pasqua, di mattina, e lui l'intera, lungo tirando, duro come il giasso, occhio sbarrato, nella faccia nera, nuda la pancia, con la carne in basso, ingrumata di sangue e rosegata. Nella pace di Pasqua tase tutti i mobili de piera e nella cela nera tase il pianto de Bortolo Pissuti. S'è smorzata l'ebreta come una candeletta di seriola consuma. Stanotte missa e otto gli ha buttato nella cassa due grandi oci in sogno e quattro pori ossetti sconti da pelle fiappa. E adesso nella cassa ciodi i pianta a colpi de martello e de bastiema drento alle celle. Tutti i cori prema e i ciodi va a piantarsi nel cervello. E a cavallo della cassa adesso i canta, esequie e litanie, Heilige Juden Schwein, ora pronopis. Zum Teufel Schweinerei, ora pronopis. Stanotte si è smorzata l'ebreta come una candeletta di seriola consumata. Quel giorno che l'entrata nella cella l'era morbida, bella e par l'amor maura, ma nella faccia piena di paura sbatte due occhi carghi del dolor che si sprofonda in secoli di pena. E la buttata sopra un tavolasso e la lascia da sola qualche giorno fin tanto che una sera, missa e otto, i San Ciavado nella cela nera e i caresta para la notte intera. E dalla cela vien par ore e ore stracco un lamento de Butin che more. Da quella notte non l'ha più parlà. Da quella notte non l'ha più magnà. Lela cuciada in terra, muta, quieta, nel scuro della cela, che l'aspetta di morire. Sempre più magra la diventa, e piccola, sempre più larghi, che diventa Yoci. Cos'era? Una veceta stracampia? O una butina anemica escunia che ingrotolida nella carestia la tesberla le ociare dalla Cina? Ma nuova luce splende nei suoi occhi e là non l'è che du gran occhi in sogno e quattro pori oseti sconti da pelle fiapa. Ebreta, cos'è lo che te speti? E ci vedi mai quegli occhi grandi? Forse tua mamma, forse amoroso, oppure i buteletti che man te gavare. Ebreta, te vuoi morire de fame e nella fame te hai desmentegato quella notte. Questo mondo strangossato da tormenti e bisogni. Te si scappa nel mondo dei tuoi sogni. La fame che volea, piccola ebrea, per darte un poca di felicità. Ormai, fuori dell'onda dei dolori, lontan te miri, pian pianin te mori, e carezza leggera di sorriso te consola la bocca moribonda. Poi, te chini la faccia verso terra, sempre più, sempre più. Stanotte si è smorzata l'ebreta come una candeletta di seriola consumata. Si vede niente perché che filtra sforzo un fiato chiaro moglio avvilido come nelle grotte, ma quella gente non l'ha perso ancora il vizio di sognar e la si sogna di spalancar le porte e guardar fora. Passa sul campo libere e leggere nuvole rosa inargentata al sole, svola nell'aria sigalone nere ronde in corsa libare nel cielo e le secuna bianche nell'aprile libare rame dei pomari in fiore. se qualcuno vuole intervenire o fare delle domande sul professor Meneghetti o sul Lager di Bolzano, no? Se qualcuno ha qualcosa da chiedere o vuol fare dei commenti o c'è qualcuno che vuole intervenire, prego. Io sono l'unico superstite della galleria del Virgolo della fabbrica Inni. Si alzi, prego, prego. Nessuno dei locali storici locali qui si è interessato di due personaggi importanti che per me sono stati i Schindler della Bolzano, l'ingegner Menne e l'ingegner Bertinetto, il direttore e il commissario tedesco, ingegner Menne della fabbrica di cuscinetti da sfera. Nessuno ha detto una parola e sono stati veramente i salvatori di molta gente. Nessuno di voi ha messo una parola, uno scritto da parte vostra. È vergognoso. No, prima di parlare di vergogna bisogna riflettere, signore. Prima, no, perché i locali lo sapevano. Il procuratore di Verona. Bisogna dire una cosa, che bisogna saperlo. Magari rientrava nella normalità dell'attività da svolgere, quindi non ha lasciato un ricordo particolare nella memorialistica. Per i due personaggi sono stati veramente, di cui ospite l'ingegner Bertinetto dei padri domenicani uno dei padri domenicani, e hanno salvato un sacco di gente, ha avuto l'esonero un sacco di gente, hanno salvato gli stessi prigionieri che quando i Lager o la Belva venivano dentro e ne facevano di tutti i colori, sono loro che calmavano la situazione, se no ne avrebbero fatto di tutti i colori, ma nessuno ha messo una parola, un solo scritto da parte nostra. Forse va chiarito, il signore si riferisce al fatto che nella Galleria del Virgolo era stata praticamente allestita una fabbrica di cuscinetti a sfera, e gli internati del Lager di Bolzano andavano, una parte degli internati, non certo quelli nelle celle nere, andavano a lavorare nella galleria, e certamente ci saranno stati degli ingegneri o dei dirigenti che hanno avuto un comportamento umano nei confronti, ma naturalmente non è che si può fare un libro o una storia per ognuno di coloro che si sono comportati umanamente. Siamo sempre in tempo. Erano in due. Bravo. Siamo sempre in tempo. Erano in due. Lo sapevi già da anni che te l'avevo detto. Sì. Ecco, non... Io ho bisogno dei miei storici che affrontino correttamente le cose. Se mi consenti... Non è stato arrestato, è stato dichiarato cittadino italiano subito, senza neanche un minuto, perché ha salvato un sacco di ufficiali, di militari che erano scappati l'8 settembre, li ha salvati lui, gli ha fatto avere l'esonero. Tanti noi, io avevo 16 anni, dovevo andare anch'io in Polonia, però mi hanno esonerato. Ho trovato la fortuna di avere l'ingegner Bertinetto che frequentava padre Rosario, e non ti preoccupare, un sacco di giovani verranno esonerati. Però nessuno di voi ha detto una parola, nessuno. Ma guardi, posso dire una cosa, Bertoldi? Voi sapete che a Gerusalemme c'è il bosco dei giusti, gli alberi dei giusti, perché per ogni giusto riconosciuto come tale è stato piantato un albero, ma questo non vuol mica dire che quello non potrebbe diventare una foresta più gigantesca se li conoscessimo tutti, no? Dicono, non è che, insomma, poi ci sono anche delle graduatorie, no? Insomma, Meneghetti forse ha fatto qualcosa di più, sì. Comandando il centro. Quante volte ha rischiato la SS loro? Vabbè, insomma. Sì, in quelle posizioni. Vabbè. Se vogliamo consolarci assieme, io mi sono dato da fare perché ho la fortuna di aver ereditato da un grande bolzanino che si chiamava Mascagni un'assemblea di storici, di studenti che allora che sono diventati degli insegnanti, che hanno curato la raccolta di tutta la documentazione possibile, perché è stata dura. Solo nel 2004 siamo riusciti a fare una ricerca, e l'hanno fatta i figli di persone che sono passate dal Lager, una ricerca dove abbiamo stabilito che non erano più gli 11.116 numeri che avevamo di quelli che erano passati dal Lager, ma erano visi, nomi, identità. E ne abbiamo raccolto 8.000, ne mancano ancora 1.500. perché hai parlato della galleria, benissimo. Pio Bolzano stasera non lo vedo, ma c'è uno che è stato in galleria, è stato salvato dal militare perché l'hanno assunto alla fabbrica di cuscinetti in galleria, e invece di andare al militare è andato in galleria, è diventato farmacista a Bolzano, è uno di quelli che abbiamo raccolto, e così via. L'altro giorno è arrivata a Bolzano una che allora aveva 13 anni, si chiamava Noemi Pienegonda. Lei non è andata nelle gallerie, ma le due sorelle e la mamma ogni giorno, uscendo dal lager, passavano per via Piacenza, via Torino, Ponte Roma, e andavano sotto la galleria del Virgolo. La gente che abitava lì attorno, la piccola gente, perché la solidarietà viene solo dalla piccola gente, la piccola gente, vedevano che passavano ogni giorno. Se erano guardati solo dalla Wehrmacht e non dalla SS, allora una che vendeva il pane andava a mandare un bambino a portare un sacchetto di pane, o raccoglieva una lettera che passava, e la solidarietà di quelli che abitavano in via Piacenza, in via Torino, si è sviluppata così, perché non era semplice. Ma non, no, io spero che ci convinciamo a vicenda. Allora, l'altro giorno è arrivata sta Noemi del dottor Verga, erano i direttori, però non possiamo, posso guarda, scrivi, oh porco mondo, scrivi quello che sai. Il grande contributo delle fabbriche di Bolzano, la Lancia, le acciaierie, e fecero addirittura scappare degli internati. In quel periodo la Lancia arrivò a più di 5.000 occupati, non era mai accaduto nella sua storia, e fra cui addirittura dei partigiani scappati dai rastrellamenti della grappa. Per cui ci furono veramente tantissime storie, è veramente impossibile ricostruirle tutte se non ci viene incontro un po' di fortuna, come dire. Ecco, però per tornare al tema, abbiamo ascoltato queste bellissime poesie, la tensione. La prima era Partigiana nuda e si riferiva a un fatto specifico. A Palazzo Giusti a Padova, dove operava la banda Carità, c'erano gli interrogatori che erano praticamente il preludio alle torture, e Mario Carità molto spesso per umiliare, per mettere a disagio psicologicamente le partigiane, le faceva spogliare, ecco, per deriderle, per rimetterle. E questa è la storia di una partigiana che si spoglia e a un certo punto la sua mente quasi si trasferisce in un altro mondo, ai confini con la pazzia, perché incomincia a tutto le gira intorno, e addirittura per un attimo diventa pazza, si mette a ridere, fa una di quelle risate da pazzi che Meneghetti conosceva bene, perché Meneghetti da bambino era cresciuto nell'ospedale dei pazzi di Verona, dove il padre era direttore, e praticamente questa metamorfosi crea anche in questi aguzzini un attimo di sgomento, e in un certo senso con questa fuga nella pazzia lei riprende la sua dignità. E la seconda invece era chiaramente Lager, Bortolo e Levretta, ovvero Lacante su Bolzano, sul Lager, e abbiamo visto è il movimento dei contrasti, no? Bolzano in primavera, i meleti in fiore, le rondini, e invece dentro questo clima di oppressione, le celle che non hanno sguardo verso fuori, e poi questi dettagli fisici tremendi, no? Meneghetti sa passare nella stessa strofa da un tono veramente epico a un tono lirico incredibile. Con quattro pennellate scolpisce un personaggio, le mani di Miscia che sembrano come i tentacoli di un mostro che non stanno mai ferme. È quello che era nelle menti degli internati, oppure gli occhi di Otto che sembrano occhi di biscia, proprio di una biscia. E io devo dire, quando Quando ho visto per la prima volta la fotografia di Misha, quindi ringraziamo ancora che sia stato fatto questo, che ce l'ha procurato, esatto, perché noi non avevamo nulla e per la prima volta grazie al processo abbiamo visto tutti la fotografia del ventenne Misha, che era proprio la sua fotografia militare. Ebbene, l'impressione che ho avuto era veramente di questo volto giovanile, ma quasi dalla pelle già vecchia. È quello che dice lui, Meneghetti, dice una faccia giovane vecchio da 50. Ebbene, quindi lui si era tenuto nei suoi ricordi, perché lui di sicuro non ha visto delle foto di Misha. Quando scriveva queste cose, lui scriveva soltanto su ricordi. Ebbene, ha una corrispondenza proprio precisa. Ebbene, e poi gli episodi di Bortolo, proprio la mattina del giorno di Pasqua, e dell'ebreetta che viene raccontata con questo strazio. Ecco, Meneghetti ha una simpatia proprio istintiva per i giovani, per i bambini. I butini, credo che sia la parola che ricorre più spesso nelle poesie sue, no? I butini. Probabilmente questo me l'ha fatto pensare. Mi hai dato tu questa chiave, beh, insomma, la morte della figlia, 14enne, indubbiamente è qualcosa che viene fuori anche dai ritratti che lui fa, questo affetto. Tornando a Misha, per dire proprio questo gelido assassino, bisogna dire che quando ha fatto il processo, il pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, dottor Costantini, c'è stato anche qualcuno che ha detto: ma questa è archeologia giudiziaria, ma questi, insomma, lasciamoli morire in pace. Ma se voi vi rendete conto della natura dell'animo di questo criminale, poi questi sono crimini contro l'umanità naturalmente, ma che ha ucciso ficcandogli le dita negli occhi, ha tagliato la gola con un collo di bottiglia a una ragazza, cioè se vi rendete conto della ferocia di questa, per voi capite che fare giustizia, avesse anche raggiunto l'età dei 100 anni, a mio avviso era sempre necessario, sempre utile, e se eravamo sempre in tempo. Tanto per dire, quest'uomo non ha mai avuto una parola di pentimento, mai. Quando è stato estradato dal Canada, prima dell'estradizione, si è difeso strenuamente e ha avuto degli ottimi difensori pagati lautamente da un signore che al processo di Verona, io vedevo questo signore che sedeva accanto ai due avvocati con una valigetta in mano, e incuriosito mi sono avvicinato a uno dei due avvocati e ho detto: scusa, ma quello lì chi è? E lui dice: è quello che mi paga. Allora poi mi sono avvicinato anche al signore e gli ho detto: scusi, posso chiedere, ma lei chi è? Io dice: sono il segretario di Uomo e Libertà, bella associazione. E Misha è stato, Seifert è stato assistito anche in Canada, hanno fatto opposizione davanti alla Corte Suprema, all'estradizione, eccetera. Si è difeso, ma non ha mai avuto una parola di pentimento. Quando era detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il dottor Costantini, assieme al procuratore della Repubblica di Dortmund, che è competente per i crimini nazisti all'estero, vero questo, no? Ecco, il dottor Costantini è andato a Santa Maria Capua Vetere assieme al procuratore della Repubblica di Orton per chiedere le notizie sul suo compagno Otto. Sul suo compagno Otto. Otto sai che purtroppo non è mai stato né rintracciato né identificato. E lui cosa ha detto? Che non voleva, non ha risposto. Si avvaleva della facoltà di no. Quindi questa è Misha Seifert. La prima cosa che ha fatto Seifert quando ha ricevuto in Canada la comunicazione dalla Procura Militare di Verona che era iniziato un procedimento, un'istruttoria nei suoi confronti, la prima cosa che ha fatto, ha venduto la casa di sua proprietà che aveva in Canada, che ha pensato magari chissà cosa. Però bisogna dire che ha ricevuto una lettera di sostegno, vero, molto molto appassionata, da parte del parroco del suo quartiere, che ha detto qualcosa di più. Il parroco quando fu condannato disse: beh, anche Gesù Cristo fu condannato innocente. Capito? Il parroco del quartiere di Vancouver dove Misha ha passato tranquillamente la sua vita, perlomeno insomma non l'ultimissima parte della sua vita, ecco, non l'ultimissima parte. Si è sposato, ha avuto un figlio, ha avuto la cittadinanza canadese, ha avuto la cittadinanza canadese. Falsificando comunque, la paternità e la data di nascita. Sì, ma poi aveva tra l'altro dato dei dati sbagliati per non essere identificato. Bene, grazie allora. No, vorrei ricordare che cosa ha fatto Meneghetti dentro il lager. Meneghetti, la sua poesia, ha salvato e ha fatto resistere e sopravvivere le persone che stavano dentro. Una di queste si chiamava, volevo nominarlo prima, ma è così turbolento, si chiamava Noemi Pienegonda, aveva 13 anni e ha compiuto 14 anni nel carcere di Rovereto. È stata catturata dai fascisti della Banda Carità, a proposito, che sono andati pistola alla mano alla schiena della madre a farsi consegnare la ragazzina nel collegio del suolo Orsoline. La ragazzina è tirata fuori, è stata portata a Rovereto, ha compiuto 14 anni a Rovereto, è stata interrogata, e mentre lei veniva interrogata, vedeva quello che lo interrogava, che gli chiedeva: ma dov'è tuo fratello? Il fratello era il comandante Rado, era un comandante partigiano, per quello hanno portato via la Banda Carità, ha portato via tutta la famiglia. E lei vedeva che al collo di quello che lo interrogava c'era la sciarpa che lei aveva fatto a mano per il fratello, quindi l'avevano già il fratello in mano. E tutti assieme, il fratello, le tre sorelle e la mamma, sono state portate nel lago di Bolzano. Arrivate nel lago di Bolzano, una ragazzina tutta spaventata che veniva dalle Orsoline è stata presa sotto la protezione di Meneghetti, che ogni giorno le faceva lezione, le faceva imparare 50 vocaboli in latino o le formule di chimica. Io dicevo che gli facevo imparare il tedesco e lei inorridita dice: ma ha fatto imparare il tedesco, ma solo il latino e le formule di chimica. E il giorno dopo lei tornava da Meneghetti a ripetere la lezione che aveva fatto il giorno prima, perché Meneghetti le diceva: tu devi studiare e pensare, perché allora sarai libera. Questo ha fatto Meneghetti per Noemi Pienegonda, e l'abbiamo avuto a Bolzano perché è libera e ancora viva. Questo ha fatto Meneghetti.